24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 50 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo martedì 9 giugno. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Questa mattina non voglio citare prime pagine di quotidiani stranieri, ma invece concentrarmi su alcune prime pagine italiane che sono tutte dedicate, penso alla Stampa con il colloquio del suo direttore Massimo Giannini, che ha avuto una conversazione con Vittorio Colao, penso anche a Repubblica e al Corriere della Sera e altri quotidiani, perché la figura di questo manager Vittorio Colao oggi è entrata di prepotenza nell'attualità con la presentazione del piano del quale avete già parlato. Ma la cosa che mi sorprende un po', devo dire, è che essendo questo un piano molto ampio, che è stato presentato tra l'altro da tre delle componenti della task force, da tre donne, mi pare che meriti forse l'attenzione che i quotidiani hanno dato e non la solita, diciamo, il solito atteggiamento di sufficienza che ho colto qua e là in commenti della serie: ah beh, ma questo l'avevano già detto, questo l'avevamo già pensato. È un piano organico, per una volta che ce ne abbiamo uno in un paese che non programma mai. Penso che farà bene il presidente del Consiglio Conte, come penso che voglia fare, a trarne ispirazione per i progetti che presenterà ai suoi stati generali, perché è la prima volta che un piano così organico, che va dalle imprese alla moneta elettronica, dalle presenze concrete, diciamo, sul fronte anche dell'evasione fiscale, alla questione degli asili nido, delle donne, cioè è un piano ampio. Ti è piaciuto, quindi ti è piaciuto, diciamo, ti è piaciuto. Non l'ho letto in tutte le sue 40 e passa pagine, perché 120 slide, quindi non voglio dare un'opinione senza aver letto. Ho letto solo quello che c'è sui quotidiani. Quello che c'è sui quotidiani mi sembra un lavoro sul quale bene farà il governo a riflettere, anche perché appunto è un lavoro complessivo. Ci sono cose che sono dette da sempre, no? La digitalizzazione, la sburocratizzazione, ma qui viene anche offerto un percorso su come arrivarci. Vedremo un po', anche se io ho molte perplessità anche a leggere cioè, gli stessi giornali. La categoria del l'avevamo già vista, questo l'avevamo già letto. No, ho molte perplessità che questo piano si attui, ho molte perplessità sul fatto che non finisca in un cassetto, esattamente come molti altri piani che abbiamo visto, come gran parte, un pezzo importante del piano per la digitalizzazione di Piacentini, il piano per la spending review di Cottarelli, di Perotti, di tutti quelli che si sono occupati di revisione della spesa. Quindi, perché poi alla fine entra la politica. Sistema intelligente quello di non dire mi approprio di questa parte o di quest'altra parte del piano della task force presieduto da Colao, ma semplicemente prenderselo, perché credo di non rivelare. Vorrebbe dire un commissariamento di della politica, vorrebbe dire un commissariamento della no, politica, no. Cioè vuol dire che a quel punto è Colao il capo del governo. No, allora, quando Sarkozy era presidente della Repubblica, riunì una serie di personalità con varie competenze, tra l'altro anche il nostro costituzionalista Bassanini, li fece lavorare qui per 6 mesi e non per alcune settimane, e poi prese alcune parti del loro lavoro. No, io penso che molto pragmaticamente, sì. Prendi quello che ti serve. Io penso che molto pragmaticamente Vittorio Colao non si aspetti che Conte dica sì, questo piano è perfetto, me ne prendo una parte, ma che silenziosamente i suggerimenti che vengono da questo piano vengano accolti dai programmi di governo, senza dire che sono di Colao. Io credo che proprio Colao questo se lo aspetti, non ha nessun interesse a rivendicare che sono le cose prodotte dalla sua task force. Credo che come italiano abbia interesse che alcune buone idee diventino implementate, così vedremo. Mi sembra di aver capito dalle conversazioni che ho avuto con lui. Vedremo. Buongiorno Angelo Panebianco, politologo, saggista, editorialista del Corriere della Sera. Professor Panebianco, benvenuto. Grazie, buongiorno. Magari una domanda anche sul piano Colao gliela faremo. In realtà le abbiamo chiesto di intervenire per affrontare un tema che, diciamo, da stretto sulle vicende di oggi diventa un po' più largo. Oggi cosa succede? Oggi c'è lo sciopero dei lavoratori dell'Ilva. C'è una grande preoccupazione per l'azienda. C'è l'ipotesi che l'Ilva torni allo Stato, tra le tante cose. E c'è più in generale una discussione aperta sull'intervento dello Stato in economia, sullo Stato che diventa azionista delle aziende. Ieri lei ha firmato un commento, un editoriale sul Corriere della Sera, nel quale allarga il campo dall'aspetto puramente economico e ci dice: attenzione, nel momento nel quale lo Stato diventa azionista, evocando quasi uno spettro cinese, professor Panebianco, no? Diventa azionista, si comprimono le libertà economiche e questa è la premessa per la compressione anche delle libertà civili. Ci dà un'idea, uno spunto su questo? Allora, noi abbiamo avuto un lungo periodo durante quella che viene chiamata convenzionalmente Prima Repubblica, in cui avevamo un'economia mista, vuol dire che c'era un amplissimo intervento dello Stato in economia, c'era un'ampia zona di economia statale. Tuttavia, anche se con difficoltà, la nostra democrazia è stata in piedi, ma questo accadeva perché noi eravamo ancorati al sistema occidentale, c'era la guerra fredda, c'erano le grandi divisioni della guerra fredda. Adesso tutto questo non c'è più e quindi ritornare a una fase di forte espansione dello Stato in economia mette a rischio non solo le libertà economiche che vengono compresse, come erano compresse durante la Prima Repubblica, perché lo erano, ma questa volta mette a rischio anche aspetti significativi delle altre libertà. Evocare la Cina ovviamente è solo un gioco polemico, è ovvio che nessuno pensa che si possa trapiantare il sistema cinese da qualche altra parte, ma la Cina è semplicemente una dimostrazione di un capitalismo di Stato di successo che piace in giro e tra l'altro piace anche alcuni, incredibilmente potremmo dire, ad alcuni settori del nostro paese. Qui ci sono problemi grossi di cultura politica, di debolezze della cultura politica di certi settori del paese, che può spiegare le simpatie estese per Putin da un lato e la simpatia di cui gode la Cina dall'altro. Ma il punto autentico è che se quando non sei più costretto dalla NATO, dal giochio della guerra fredda a tenerti la democrazia, se espandi l'intervento dello Stato, questo ha dei riflessi. Per quanto riguarda l'Ilva, se ho capito bene, non è solo un'ipotesi il fatto che se la prenda lo Stato, è una quasi certezza, da quel che capisco. A parte la questione acciaio, che pure ha la sua importanza per un paese che voglia mantenere un piede nelle grandi imprese e non essere soltanto un paese di turismo, certo. Volevo chiederle, professore, qual è la sua opinione sul ripensamento sul capitalismo che è in corso ormai, direi, da un paio d'anni, anche prima della crisi del Covid-19, in tutto il mondo occidentale. Poi col Covid-19 abbiamo visto cose che non avremmo mai immaginato di vedere. Un paese come la Gran Bretagna, che da Margaret Thatcher in poi ha fatto del liberismo una sua pietra fondante, ebbene, che ha fatto? Ha nazionalizzato una parte della rete ferroviaria, sospendendo il sistema di franchising col quale appunto era gestita. Per i prossimi 6 mesi, a partire da marzo, chi operava sulla rete, i privati che operavano sulla rete ferroviaria, prendono una manager fee e i costi e le perdite di fatto vengono scaricate sul contribuente britannico, perché il ricorso ai treni è calato del 70%. Dunque, la Gran Bretagna, culla delle privatizzazioni, contraria alla nazionalizzazione, eccetera, nazionalizza, sia pure temporaneamente, le ferrovie dando un segnale in controtendenza rispetto a tutto quello che aveva teorizzato per decenni. Che ne pensa? Allora, intanto vale quello che lei ha detto, temporaneamente, e nel caso della Gran Bretagna possiamo pensare che sia vero. C'è una situazione che è stata giudicata di emergenza, tra l'altro c'è stata una gestione pessima della fase iniziale di questa tragedia dell'epidemia da parte del governo britannico. Bisogna anche aggiungere che la privatizzazione del sistema ferroviario è stata la più controversa e la più difficile, e per un lungo periodo di tempo anche quella che ha meno funzionato di tutte delle privatizzazioni dell'età di Thatcher. Quindi intanto c'è qualcosa di molto specifico legato a quello. Però più in generale è vero quello che lei dice, che c'è un ripensamento in settori non piccoli del mondo occidentale del capitalismo, però le faccio notare che tutto questo avviene in coincidenza con il forte rafforzamento di quelle tendenze che vengono chiamate sovraniste o populiste, perché il primo aspetto di questa contrapposizione culturale o di questa opposizione, di questa critica al capitalismo è legato al fatto che ciò che più si critica è la globalizzazione, cioè che poi è come dire, l'espressione massima di ciò che produce una società aperta, capitalistica, come quella occidentale. Dalla critica alla globalizzazione, alla critica al capitalismo, il passo è breve. Aggiungo un'altra cosa, tutto questo si fa normalmente, ciò che giustifica, che legittima la critica al capitalismo è naturalmente la lotta alla disuguaglianza. Per la verità, gli statalisti, cioè coloro che vogliono aumentare il controllo statale sulla vita di tutti noi, hanno l'obiettivo ufficiale di ridurre le disuguaglianze fin dall'Ottocento. L'unica differenza è che adesso hanno rinnovato il guardaroba. Alcuni idoli non ci sono più, Marx è meno di moda, e ci sono altri idoli. Vedo che Piketty è uno di quelli che va, l'economista Piketty è uno di quelli che va per la maggiore, però l'obiettivo è sempre lo stesso. E l'esito è sempre lo stesso, l'esito è un aumento del controllo dello Stato sulla vita delle persone, partendo naturalmente dall'economia e arrivando altrove. Un'onda statalista, in sostanza, professor Panebianco, che andrebbe arginata, mi sembra di capire da quel che ho letto, no? Con una sorta di limite temporale, un po' come la Gran Bretagna sta facendo, un dire temporaneamente, ma indicare anche un limite di tempo, perché in questo paese i temporaneamente di questo paese, diciamo, tendono ad essere eterni. Sì, infatti io non ci credo al fatto che l'intervento dello Stato sia temporaneo. Non può essere temporaneo, perché se lo Stato diventa azionista di tante imprese, dopo si formano degli interessi fortissimi che tenderanno a mantenerlo lì, interessi politici, sindacali e così via, che tenderanno a mantenerlo lì. Aggiungo però un'altra cosa che è importante: anche da parte delle aziende potrebbe non esserci, delle imprese private, potrebbe non esserci una grande resistenza, perché le imprese, per ragioni comprensibilissime, hanno bisogno di ossigeno, hanno bisogno quindi di denaro per fronteggiare questa fase, e quindi potrebbero finire, o una parte di loro almeno, finire per accettare la presenza dello Stato senza protestare troppo. C'è anche questo rischio. Un po' come hanno fatto gli operatori delle reti ferroviarie, che vedendo crollare il numero dei passeggeri sono stati ben contenti che le perdite fossero scaricate sul governo britannico. Naturalmente. D'altra parte il grande padre del liberalismo economico, preferisco l'espressione liberalismo economico a liberismo, che è un termine solo italiano che ci siamo inventati noi, il padre del liberalismo economico, Adam Smith, diceva: guardate che gli imprenditori, se possono, quando possono, caricheranno sui consumatori le loro perdite. Quindi il problema esiste, naturalmente. Noi abbiamo bisogno di un sano sistema di imprese private, però tenendo conto che gli esseri umani sono poi sempre uguali e sono sempre pronti, naturalmente, a scaricare sugli altri le proprie eventuali inadempienze. Prima di salutare, certo, professore, prendiamo un caso preciso all'Italia. Tutti noi per decenni, da questa radio, ma non solo, abbiamo detto: ma perché continuare a gettare milioni di euro in questa fornace? Non sarebbe più logica a venderla, se ci fosse qualcuno interessato, o se no chiuderla. Dopodiché, in questi mesi di tragedia, abbiamo constatato che se non ci fosse stata l'Alitalia, molti nostri connazionali bloccati in altri paesi non sarebbero mai potuti tornare in Italia. Non è una ragione sufficiente per tenere in piedi una compagnia di bandiera, ma le chiedo proprio sul filo del ragionamento che lei ha sviluppato sul Corriere della Sera. Lei con Alitalia cosa farebbe? Anche perché adesso abbiamo scoperto che surrettiziamente si stava cercando di applicare alle compagnie low cost le stesse regole che valgono per i dipendenti Alitalia, e le compagnie low cost hanno vivacemente protestato. Dunque è un tema molto molto importante. Da un lato la necessità di avere una compagnia di bandiera che appunto nella tragedia è tornata utile, dall'altro l'impossibilità di sostenere ancora questi costi. Come se ne esce? Come se ne esce non lo so, però l'Alitalia è un tema che lei ha giustamente toccato, perché vorrei ricordare che in Italia l'ondata liberista di cui parlano non c'è mai stata. Tanto è vero che quando si doveva nazionalizzare l'Alitalia c'era il governo Berlusconi, si ricorda? C'era il governo di centrodestra, e invece non ci fu nessuna liberalizzazione, il carrozzone rimase in mano allo Stato con tutti i costi e con tutto ciò che ha continuato a pagare il contribuente. Non solo non se ne esce, non solo non si possono applicare le stesse regole che valgono per il personale d'Italia alle altre compagnie, ma tra i due mali, io credo che bisognerebbe accettare l'idea che se nessuno può risanare all'Italia, allora se ne fa a meno. Non si vede per quale ragione assorbire tante risorse che potrebbero benissimo andare a scopi produttivi. Prestito ponte su prestito ponte. Allora, professor Panebianco, obietta un ascoltatore qualificato e dice: il suo discorso è un po' ideologico, questa è una fase nella quale serve pragmatismo, e quindi il fatto che lo Stato entri nelle aziende in una fase come questa è opportuno, insomma. Ho capito, benissimo. Lei cosa dice? No, io pragmaticamente dico: vediamo che cosa vuol dire dal punto di vista temporale l'intervento dello Stato. Forse è opportuno che arrivi denaro laddove deve arrivare, che arrivino i fondi europei laddove e che vengano distribuiti nei luoghi e che vadano a scopi produttivi, perché questo debba essere accompagnato dal frutto avvelenato della presenza dello Stato come azionista. Questo io non faccio fatica a capirlo, però il punto è un altro, è che quando arriva l'intervento dello Stato, dopo non si torna più indietro, punto e a capo. Questo sarà ideologico? No, credo che questo sia un fatto. Alcuni si sono rassegnati all'idea che l'unico modo per affrontare questa situazione è accrescere l'intervento dello Stato, devono però sapere che questa è una scelta che condizionerà gli anni a venire, naturalmente. Poi, una volta chiarito questo, poi magari hanno ragione loro ed è giusto che questo accada, però non veniamo a raccontarci che sarà una cosa temporanea, perché questo non credo sia vero. Lei non ci crede. Se posso rubarle ancora un minuto, era proprio per tornare sul documento Colao, più di 35 pagine, 120 proposte in 6 settori, dalla semplificazione negli appalti ai programmi di sviluppo degli asili nido, la digitalizzazione, alcuni suggerimenti che faranno sicuramente discutere, come la voluntary disclosure ancora e un forte ricorso alla moneta elettronica, che modernizzerebbe certamente il paese. Siamo uno dei paesi europei che fa ricorso molto molto lentamente alla moneta elettronica. Intanto le chiedo: qual è il metodo, secondo lei, più giusto perché questo piano con queste proposte possa essere eventualmente ricevuto dal governo e fatto proprio, anche senza dire che ricorre al piano Colao. Ecco, lei prima, ho sentito, stava citando Sarkozy, no? E quindi il modo più sicuro perché un governo adotti un piano è il patto che ci sia una certa centralizzazione del potere, cioè il capo del governo ha le capacità e gli strumenti per decidere, beh, questa parte del piano mi piace, la prendo e la applico. Ma quando, come in Italia, il governo è in mano a una pluralità di forze che sono quelle che lo sorreggono dal punto di vista parlamentare e il primo ministro non ha i poteri di Sarkozy, le cose cambiano perché il piano a quel punto finisce in un tritacarne, finisce dentro i giochi di le spinte, le controspinte e le divisioni all'interno della maggioranza. Quello che si può sperare è che qualche buon che piano Colao, da quel che ho capito, io non l'ho visto, ho solo avuto delle anticipazioni, nient'altro. Il piano Colao contiene diverse cose intelligenti, spero che alcune di queste cose intelligenti vengano recepite, questo lo spero come italiano naturalmente. Però ricordiamoci, i processi decisionali in Italia non sono tali da consentire facilmente che come dire, un piano, ancorché ben costruito, possa essere recepito dalla politica e applicato in tutto o in parte. Il processo decisionale italiano è diverso, è molto ma più se non cambia, complesso. Dopo il Covid-19 siamo spacciati, sì. Professore. No, adesso spacciati. Ripeto, sicuramente nel piano ci sono cose intelligenti che spero vengano almeno in parte recepite, ma pensare che il piano venga accolto, questo no, questo è impossibile. È impossibile perché la politica non opera così, sì. Sostanzialmente. E bisogna sempre ricordare che ci sono dei porti limiti a ciò che può fare l'esperto nel rapporto con il decisore. Come abbiamo visto anche in questi ultimi due mesi. Grazie ad Angelo Panebianco, politologo, saggista, editorialista e Corriere della Sera. Professor Panebianco, buona giornata. Sentiremo un altro punto di qualche ascoltatore ci ha detto, sentite solo una campana, solo un punto di vista su questo tema. No, non vi preoccupate, adesso arriviamo, parleremo. Arriva con Riccardo Realfonso, ordinario di economia politica dell'Università del Sannio, coordinatore della consulta economica della FIOM CGL, ma con lui parliamo subito dopo la pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta 349 238 6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, anche per le vostre voci. E dunque, buongiorno a Riccardo Realfonso, lo ripeto, ordinario di economia politica all'Università del Sannio, coordinatore della consulta economica della FIOM CGL. Professor Realfonso, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Allora, vuoi iniziare tu, Maria? Prego. Volentieri. Buongiorno professore. Dicevamo prima con Angelo Panebianco che in tutto il mondo è in corso un ripensamento sul capitalismo. Anche un capitalista come Warren Buffett tempo fa ha espresso la convinzione che il capitalismo, per sopravvivere, si deve rigenerare, deve cambiare. Ora, citavo il caso della Gran Bretagna, che è il paese simbolo di tutto quello che è stato il liberismo, le teorie della scuola di Chicago, da Margaret Thatcher in poi. Gran Bretagna era, come dire, liberismo. E invece, ai tempi del coronavirus, qualche mese fa, il governo conservatore di Boris Johnson ha deciso di nazionalizzare temporaneamente le ferrovie, che stavano avendo delle perdite enormi, 70% di passeggeri in meno. Quindi Gran Bretagna cambia idea e nazionalizza, sia pure temporaneamente. Siamo alla vigilia di un cambiamento di di impostazione, almeno in Occidente, secondo lei, perché anche la Germania sta facendo delle riflessioni in questo senso, oppure si tratta di una cosa temporanea dettata proprio dall'emergenza Covid-19? Ma guardi, io mi auguro vivamente che si tratti di un cambiamento di impostazione che si ponga fine a una fase di liberismo, come dire, sfrenato che abbiamo vissuto negli ultimi decenni. La realtà dell'economia mondiale che abbiamo appunto vissuto è stata una realtà all'insegna della piena, diciamo, di una libertà delle imprese di agire a livello internazionale, di localizzare, di agire nei rapporti di lavoro senza sostanzialmente, con sempre meno vincoli e sempre meno tutele per i lavoratori, di agire a dispetto degli equilibri ambientali sulla scena internazionale. Abbiamo vissuto un'epoca, diciamo, di globalizzazione sfrenata, incontrollata, un'epoca all'insegna della piena libertà dei movimenti di capitale, un'epoca all'insegna della deregolamentazione del mercato del lavoro, che ha fatto danni evidenti, e appunto sia dal punto di vista sociale e distributivo, nel senso che abbiamo visto in Europa, negli Stati Uniti, una polarizzazione nella distribuzione dei redditi evidente, con un aumento diciamo, della concentrazione della ricchezza in alcune mani e un accrescimento della povertà. Abbiamo vissuto un assalto al pianeta. Insomma, come dire, mi pare che c'è una letteratura scientifica che ha evidenziato gli impatti di una. Mi scusi, Alfonso, mi permette di un liberismo sfrenato e di una globalizzazione assolutamente incontrollata. Mi permette di dire una cosa, Alfonso? In realtà, noi negli ultimi 20-30 anni abbiamo assistito alla più massiccia uscita dalla povertà della storia della popolazione mondiale. Quindi, insomma, sarà pur vero che in alcuni paesi c'è stato un accrescimento delle disuguaglianze, ci sono stati degli impoverimenti localizzati, per carità, non è che stiamo mettendo in dubbio le questioni localizzate, però dal punto di vista generale i dati su questo sono incontrovertibili. Sono incontrovertibili i dati. Lei fa riferimento sicuramente a quelli che sono gli impatti dell'innovazione tecnologica, gli impatti della ricerca scientifica, il motore ultimo del progresso e dello sviluppo economico, che è appunto la continua innovazione, la continua capacità di incrementare la produttività, e questo ha portato soprattutto nei paesi in ritardo di sviluppo, quello che una volta si chiamava il terzo mondo, il raggiungimento di determinate soglie, diciamo, di sussistenza, e quindi questi impatti sulla povertà sono e sulla miseria a livello globale ci sono sicuramente stati. Io facevo riferimento a quello che è accaduto nei paesi capitalisticamente maggiormente avanzati. Nei paesi capitalisticamente avanzati, quindi parlo dell'Europa, parlo degli Stati Uniti in primo luogo, si sono avuti degli effetti sociali negativi, e tutte le politiche che sono state improntate a questa visione ideologica, a questo furore ideologico e dogmatico, che sono state le politiche delle liberalizzazioni, delle privatizzazioni, delle deregolamentazioni del mercato del lavoro, hanno prodotto disastri, a cominciare dal nostro paese. Noi in Italia abbiamo vissuto una stagione, faccio riferimento, guardi, solamente al periodo 2008-2019, la risposta alla drammatica crisi del 2008 è stata una risposta all'insegna delle ricette super liberiste dell'austerità, della riduzione dello spazio del pubblico e della deregolamentazione del mercato del lavoro, e poi dobbiamo fare macchine indietro, e anche molto rapidamente, perché il nostro paese ha subito gli impatti di una drammatica epidemia e rischia di avere una capacità di ripresa bassissima, perché c'è stato questo, perché ci sono stati delle politiche. Professore, come si fa a ricominciare? Mi scusi professore, come si fa a ripartire senza avere chiaro quali sono le direttrici su cui punterà l'Italia della produzione. Noi siamo un paese di piccole e medie imprese, lo sappiamo, e quelle se la cavano abbastanza bene se fossero sostenute a livello internazionale soprattutto. Poi c'è da capire se l'Italia vuole mantenere una presenza nell'acciaio, che credo sia utile per un paese che si picca di essere uno dei paesi industrializzati del mondo e uno dei primi in Europa. Dobbiamo sapere se vogliamo mantenere una presenza in settori strategici come quello dell'energia. Ecco, tutto questo ha bisogno sicuramente di uno Stato, di un governo che faccia dei progetti, esattamente come li stanno facendo Germania e Francia. Non crede? Assolutamente sì. E naturalmente qui passiamo, come dire, da un ragionamento di carattere generale e dalle ombre e secche che ha messo in moto, che ha messo in evidenza un sistema di produzione a livello globale, a quelle che poi sono le capacità della politica nostrana. È chiaro che il discorso che facevo precedentemente è finalizzato a mettere in evidenza come l'idea secondo la quale appunto il liberismo senza freni e senza ruolo dello Stato è all'insegna di una libertà completamente sregolata da quelli che sono l'utilità sociale, diciamo, dell'azione economica privata. È deleteria. Mi porta un esempio pratico del liberismo selvaggio che sarebbe stato attuato nel nostro paese? Io penso innanzitutto alla politica di riduzione dell'intervento pubblico, alla costrizione dello Stato, alle politiche di austerità. E penso all'ideologia secondo la quale nel mercato del lavoro la riduzione delle tutele, la creazione di contratti atipici, la moltiplicazione di queste tipologie contrattuali avrebbe favorito l'occupazione, la fuoriuscita dello Stato attraverso consolidamenti fiscali avrebbe dato il via una espansione, quindi tutti questi messaggi che hanno riguardato soprattutto il fatto che il mercato da sé risolve i problemi e quindi lo Stato deve farsi da parte, le regole pubbliche devono farsi da parte. Abbiamo visto nel nostro paese. In realtà l'idea sarebbe quella di avere uno Stato regolatore e appunto il mercato, cioè uno Stato regolatore che mette le regole di fondo e poi un mercato che si organizza. Appunto. Andrea da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Andrea e sono in economia aziendale. Ecco, voglio dire che concordo con il professore D'Alfonso e contesto quello che dice il professor Panebianco, perché innanzitutto non è vero che liberismo e liberalismo sono la stessa cosa, ma sono due cose profondamente diverse. Liberismo è la libertà sfrenata in economia e liberalismo invece è una libertà regolata dal mercato. Si sa che esistono delle frizioni nel mercato, se queste cose vanno in qualche modo regolate e non lasciate liberamente. Poi dopo non mi sembra che tutta questa libertà di azione degli imprenditori abbia portato a dei miglioramenti. Basti vedere cosa è successo con la privatizzazione di autostrade che stiamo facendo da Bancomat ai Benetton senza aver avuto un reale miglioramento del servizio, se non un aumento dei pedaggi autostradali costanti che ha portato poi perdita di competitività alle imprese di autotrasporto e quindi alle nostre merci. Ecco. Andrea, il suo punto è chiaro, poi insomma su quello la discussione è aperta. Detto ciò, non è che lo Stato abbia fatto queste meraviglie col suo intervento in economia. Professore Alfonso, che dice? Ma, intanto io direi che questa è sicuramente, appunto come dicevo prima, la politica nostrana non brilla in generale, questo è un dato di fatto. Certo però è questo che quello che noi abbiamo visto in questi anni, per questo mi pare che le tesi affermate da Panebianco precedentemente siano molto molto ideologiche e fuori tema, direi, perché il tema attuale è quello della constatazione, della presa d'atto che il sottoinvestimento pubblico drammatico a cui abbiamo assistito negli anni scorsi, e noi abbiamo visto tra il 2008 e il 2019 una percentuale di investimento pubblico del PIL significativamente inferiore alla media europea. Questo significa che noi ogni anno abbiamo accumulato un disinvestimento pubblico ben superiore ai 100 miliardi di euro tra il 2008 e il 2019, cioè ogni anno lo Stato italiano ha speso molto meno di quanto faceva la Francia, la Germania, gli altri paesi in infrastrutture pubbliche, in scuola, università, in manutenzione del territorio, eccetera. E quello che noi vediamo è che abbiamo pagato sulla pelle, purtroppo, drammaticamente, dei nostri cittadini le difficoltà, a cominciare da quelle appunto del sistema sanitario, no? Se noi avessimo avuto un numero di posti letto di terapia intensiva uguale a quello per esempio paragonabile a quello tedesco o a quello francese, avremmo avuto purtroppo molti meno morti. Alfonso, stiamo per chiudere. Maria Latella aveva una domanda. Maria, sì, volevo prego. Soltanto dirle, proprio per non continuare col cahier de doléance del passato, visto che qui bisogna ripartire, o si riparte o si muore, mi dice che cosa farebbe lei per Alitalia? Allora, per l'Italia adesso c'è questa, adesso c'è, cioè, è stata imboccata una strada, la strada che è stata imboccata è questa della New Co. A questo punto, questo mi sembra, dopo tanti pasticci, perché io non è che voglia, come dire, difendere evidentemente i tanti pasticci che sono stati fatti intorno all'Italia o intorno all'Invalitaranto. Quindi la via attuale le sembra giusta? Ormai è spacciata questa strada, e questa strada io credo vada seguita. Io volevo fare solamente un'osservazione: attenzione a non considerare il tema dell'intervento pubblico come tema delle nazionalizzazioni. Le nazionalizzazioni o l'intervento pubblico nella proprietà di alcune imprese sono uno degli strumenti di politica industriale che un paese avanzato deve avere. Il tema è poi quello di riuscire a intervenire, quello che bisogna fare adesso in questa fase, con investimenti massicci per rilanciare la competitività territoriale del nostro paese. Questo grande tema sul quale torneremo, glielo prometto. Sul quale torneremo per forza. Grazie a Riccardo Realfonso. Maria, ci sentiamo domani 8:20 con gli altri ascoltatori alle 6:30. A domani. Ciao a tutti, ciao.